Io credo che con il venir meno della maggioranza la cosa più logica sia che questo governo continui per l'ordinaria amministrazione sino alle prossime, molto prossime elezioni. Domani il Senato darà la sua risposta alla richiesta di fiducia del governo, ma già questa sera se l'intervento dei rappresentanti dell'Udeur dirà che l'Udeur esce dalla maggioranza, questa maggioranza non è più politicamente e democraticamente tale, perché si è trascurato nel passato il passaggio del Partito dei Pensionati con i suoi 333.000 voti nel Partito Popolare Europeo e con noi. E già questo avrebbe fatto cadere il premio di maggioranza alla Camera di 60 deputati alla sinistra. Con i 534.000 voti dell'Udeur, se questo avverrà, ci sarebbe più di 1 milione di voti in meno per questa maggioranza e quindi 2 milioni di voti di distanza e la rappresentazione in Parlamento di ciò che è nel Paese. Sappiamo che nel Paese soltanto 16 italiani su 100 hanno ancora fiducia in questo governo. E l'essenza della democrazia è che si governi col sostegno del popolo e non contro il popolo.